Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. L'emergenza provocata dalla pandemia di Covid-19 ha avuto conseguenze su tutti i settori dell'economia e sui servizi a essi collegati. Il cargo ferroviario, ad esempio, ha subito un drastico calo dei traffici del 35% fra marzo e aprile, nonostante abbia continuato a lavorare sempre. Le attività produttive ora sono riprese e con esse le richieste di trasporto, ma le previsioni per questo comparto non sembrano ottimistiche. Eppure questa modalità, assieme alla strada, ha dimostrato di essere un asset strategico durante tutto il lockdown, utilizzando un ridotto numero di operatori ma garantendo movimentazione delle merci sulle lunghe percorrenze. Il trasporto ferroviario delle merci è un sistema chiuso, facilmente controllabile, tracciabile e regolabile, che richiede un numero limitato di terminali intermodali o di raccordi ferroviari industriali. Qual è la ricetta giusta per sostenere il settore in questa fase di ripresa? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Ci occupiamo oggi di un segmento importante di questo mondo, quello ferroviario, il cargo merci, un segmento che sicuramente negli ultimi anni ha vissuto una nuova giovinezza dopo un periodo sicuramente buio, vissuto soprattutto in Italia, perché nel resto d'Europa il cargo ferroviario è comunque utilizzato ampiamente. C'è stata l'esplosione di nuovi operatori, soprattutto privati, che si sono affiancati all'operatore pubblico, quindi alle ferrovie italiane, operatori che sono raggruppati in un'associazione che si chiama Fercargo, e noi oggi abbiamo il nostro ospite, il presidente di questa associazione, Luigi Legnani. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, in queste ore si sta discutendo della conversione in legge del DL Rilancio. In realtà il governo è intervenuto a più riprese sul mondo produttivo italiano, toccando anche il segmento specifico del cargo ferroviario delle merci. In che modo? Sì, noi ci siamo mossi sia sul decreto liquidità per accelerare i tempi di pagamento alle imprese di risorse che già erano disponibili, e quindi era un problema di accelerazione dei processi burocratici, e questo è stato il primo obiettivo. L'altro obiettivo è stato un obiettivo che, come dire, è stato riservato al settore ferroviario in generale, e nello specifico anche al settore cargo, che sostanzialmente ha consentito di avere un sostegno che noi riteniamo tutto sommato importante, perché il problema che vogliamo sottolineare è che la ripresa ci preoccupa, nel senso che noi nella prima fase abbiamo avuto una situazione che tra l'altro è stata diversificata a seconda delle filiere produttive che le nostre imprese andavano a servire, nel senso che alcune filiere hanno tenuto meglio, qualche altra filiera è andata molto male perché si sono fermate le imprese di produzione e quindi si è fermata anche l'attività di trasporti, ma complessivamente siamo preoccupati rispetto ad una ripresa che vediamo, certo, faticosa. Una preoccupazione che avete espresso in un documento, un position paper che è stato prodotto lo scorso 22 maggio e inviato alla ministra dei trasporti De Micheli, ne parliamo tra un attimo. Intanto però vorrei fare un passo indietro. Come stava andando questo settore in generale, il cargo ferroviario, quindi non parlo di privato o pubblico, prima dell'emergenza, quindi come è andato nel 2019? Sì, nel 2019 noi sostanzialmente abbiamo avuto un dato ripresa rispetto al 2018, con significativo incremento da parte delle nostre imprese. Fondamentalmente noi siamo arrivati a 49 milioni di treni chilometro, e sostanzialmente 24 milioni adesso sono prodotti dalle nostre imprese, ecco. Quindi c'è stato, come dire, eravamo su una fase di ripresa rispetto ad un periodo precedente nei quali c'era stata una tendenziale contrazione del, certo, del trasporto ferroviario. Come ricordavamo anche nella parte iniziale della trasmissione, come è andata invece durante questa emergenza, insomma nei primi mesi del 2020? Allora, durante questa emergenza abbiamo avuto all'inizio una tenuta sostanziale o una contrazione minore in alcuni settori, in particolare nell'intermodale, e invece ovviamente un diciamo impatto molto più forte in quelle settori che servivano le filiere, per dire l'automotive, cioè se si fermano le fabbriche è chiaro ovviamente. Che come dire, si ferma anche, anche il trasporto. Poi abbiamo registrato progressivamente qualche difficoltà anche nell'intermodale e quindi da questo punto di vista, come dire, da lì anche la preoccupazione rispetto ad un fenomeno per il quale ci sarà da monitorare la dinamica, quindi da capire come si svilupperanno, diciamo, anche il, i, le attività nei, nei prossimi mesi. Questo è un po' e questo è un aspetto fondamentale, quello che è il futuro del settore, anche di questo parleremo tra poco. Dicevamo prima, proprio per cercare di fare un po' il punto della situazione, avete elaborato un position paper fine maggio. Sì. Ecco, quali sono i punti affrontati in questo documento? Sì, sostanzialmente il position paper si è impostato in questo modo. Intanto noi, come dire, riconosciamo che gli interventi del governo sono stati interventi che noi abbiamo apprezzato, perché bisogna anche dire, insomma, quando le cose vengono, sì, sono da apprezzare, vanno apprezzate, insomma, ecco. Dopodiché il problema che noi abbiamo provato a evidenziare è il seguente, cioè ci sono tutta una serie di interventi, alcuni sono a costi zero, che potremmo classificare nella voce semplificazioni e che però sono estremamente importanti perché possono dare una risposta in termini di efficienza del settore che è importante perché vuol dire un recupero di competitività e una allineamento a quelli che sono le modalità operative che sono ormai diffuse a livello europeo e che secondo noi devono essere un riferimento anche per le attività che si svolgono in Italia. Noi oggi abbiamo delle situazioni nelle quali abbiamo delle modalità operative che sono diverse, abbiamo delle specificità nostre che riteniamo siano degli appesantimenti che, se superati, potrebbero creare le condizioni per avere una maggiore competitività del settore e noi crediamo del paese poi, perché alla fine, insomma, questo è un elemento che collega proprio, no, lo sviluppo di settori come quelli della logistica e quelli del, certo, settore complessivo del paese. Ecco, maggiore competitività di questo settore, lei dice. A questo proposito, qual è la sua visione futura del cargo ferroviario merci? Cioè, alla fine di questa emergenza, della contrazione della domanda, del crollo dell'economia in alcuni casi e quindi di conseguenza anche del crollo dei trasporti, compreso il trasporto ferroviario, cosa uscirà fuori da questo nuovo modello di trasporto? Ma innanzitutto io credo che questa esperienza di questo periodo del coronavirus, caratterizzato da questa emergenza sanitaria, intanto ha consentito a molti clienti di scoprire quanto sia importante il trasporto merci su ferrovia. Per esempio sui trasporti internazionali di lunga percorrenza i clienti hanno potuto fare esperienza del fatto che con il trasporto ferroviario ci sono delle semplificazioni, per esempio nei passaggi delle frontiere, ci sono delle possibilità anche di semplificazione rispetto a quelle che sono le procedure di sicurezza per il contagio. Io ricordo sempre che noi con un treno che al massimo a bordo due persone abbiamo la possibilità di portare 40 semirimorchi e quindi si fa presto il calcolo. Nell'intermodale abbiamo la possibilità di integrare molto bene la modalità ferro con la modalità gomma che serve per il primo e l'ultimo miglio, cioè ci sono tutta una serie di come dire, ridisegni della logistica che sono estremamente importanti, perché consentono di, come dire, non di fare come la contrapposizione o ferro o gomma, no, certo. È un problema di integrare bene perché venga sfruttata la peculiarità di ciascuno. Certo, soprattutto per quanto riguarda le distanze. Certo. No? Questo è importante, quindi questo credo che sia quello che abbiamo imparato e che secondo me potrebbe essere un elemento importante per il futuro. Insomma, un futuro all'insegna della intermodalità, quindi della possibilità di far viaggiare le merci utilizzando varie modalità di trasporto, la ferrovia insieme con la nave, insieme con la gomma, quello che ci attende nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, Luigi Legnani, presidente di Fercargo. Termina qui questa puntata di Container, che torna come al solito sabato intorno alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.